Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera parliamo di due libri che parlano della realtà economica italiana secondo due prospettive completamente diverse, ma direi complementari. Il primo libro è di Franco Mosconi. Buonasera, professor Mosconi. Buonasera, dottor Fabi. È La metamorfosi del modello emiliano, l'Emilia-Romagna e i distretti industriali che cambiano. Franco Mosconi, professore associato di economia industriale all'Università di Parma ed è appunto un grande esperto di politica industriale. Il secondo libro è di Carlo Trigiria. Buonasera, professor Trigiria. Buonasera, buonasera a voi. Carlo Trigiria insegna sociologia economica nella Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze, dove dirige il Centro Europeo di Studi sullo Sviluppo Locale e Regionale, e questo libro ha per titolo Non c'è Nord senza Sud, perché la crescita dell'Italia si decide nel Mezzogiorno. Allora, cominciamo dal Sud, direi, anche per dovere, diciamo, di dare spazio a una realtà che viene spesso affrontata con dei pregiudizi. Il Sud viene considerato come una questione meridionale sempre aperta, e di fatto è una questione meridionale sempre aperta, e lo dimostra anche questo libro di Carlo Trigiria. Ma quali possono essere le prospettive che lei indica, professor Trigiria, in questo volume in cui non c'è nord senza sud e quindi non c'è una crescita italiana senza una crescita del Mezzogiorno? Intanto sottolineerei questo titolo che lei ricordava, cioè questo lavoro vuole mettere in evidenza come oggi più che in passato la crescita complessiva del paese passa dall'affrontare in modo più efficace il problema del Mezzogiorno. Questa è una vecchia storia, come lei ricordava, però oggi quello che noi vediamo con i processi di globalizzazione, con i processi legati all'integrazione europea, rendono la questione meridionale ancora più cogente per il paese. E naturalmente questo richiede di cambiare un po' l'ottica con cui è stata analizzata e affrontata la questione, e questo è quello che cerco di fare in questo libro. Ecco, quindi lei dice in pratica il ruolo del Sud nel modello italiano non può essere considerato solo un modello appunto da un punto di vista produttivo, ma va considerato nel suo insieme, anche rilevante per la domanda di beni di consumo prodotti dalle imprese del centro-nord e per il sostegno elettorale alle forze politiche di governo. Quindi c'è un peso che il Sud deve avere perché è una realtà economica e politica e sociale rilevante che condiziona anche il Nord in senso positivo o negativo. Certamente, perché con l'attuale situazione di integrazione dell'Italia in Europa, come vediamo tutti i giorni, non possiamo più permetterci un'integrazione assistenziale del Mezzogiorno nel modello di sviluppo, integrazione per la quale, diciamo, negli ultimi anni il Sud ha funzionato soprattutto da mercato per le imprese del Nord e da riserva elettorale per i governi nazionali. Bisogna cambiare pagina, perché non possiamo permetterci dei trasferimenti netti di 60 miliardi di euro all'anno, tanto ammontano i trasferimenti che lo Stato centrale fa a favore delle regioni meridionali negli ultimi 20-30 anni. Quindi un cambiamento anche di politica industriale. Allora, Franco Mosconi, il modello emiliano. Innanzitutto vediamo perché parla nel suo libro di metamorfosi del modello emiliano. Franco Mosconi. Ma i segni della metamorfosi, o se vogliamo sciogliere la parola, della trasformazione di questo modello, che ha un suo posto in letteratura economica, politologica, i segni di questa trasformazione sono, per esempio, nuovi settori di attività economica si stanno plasmando. Dal grande Schumpeter, che per fortuna con la crisi abbiamo riscoperto, ricordiamo la grande lezione della distruzione creativa. Ecco, in Emilia-Romagna, pur rimanendo forti tutti i settori tipici del Made in Italy, l'alimentare, la moda, la meccanica strumentale, nuovi settori industriali sono in ascesa. Tutte le attrezzature per il wellness, i materiali da costruzione ecologici, la farmaceutica. In questi settori imprese private hanno aperto laboratori di ricerca e sviluppo, e coi tempi che corrono è un bel segno di speranza. Secondo, i mercati di destinazione. L'Emilia-Romagna, su una scala regionale naturalmente, è una potenza commerciale, mi si passi l'espressione, nel senso che nel 2011 ha realizzato un surplus commerciale, esportazioni meno importazioni, di 18 miliardi di euro, che è una cifra di un certo rilievo. Mentre fino a qualche anno fa oltre i 2/3 dell'export si dirigevano verso il mercato interno europeo, verso gli altri paesi partner della UE, oggi, pur la UE rappresentando un po' più della metà dell'export, hanno guadagnato peso sia i famosi BRIC, ma anche altri paesi emergenti come il Sudafrica e la Turchia. Quindi questo riorientamento geografico delle esportazioni è un altro segno della trasformazione in atto. Terzo, diciamo, mi fermo a tre, i distretti sono tanti in Emilia-Romagna, ci sono nel volume contributi dell'Ufficio Studi di Intesa San Paolo, ad esempio, che in Emilia-Romagna ne monitora una ventina. Ecco, mentre questi distretti una volta erano fatte da imprese più o meno uguali fra di loro, oggi nei distretti si sono affermate le medie imprese e le medie imprese sono un po' la nuova elite dei distretti industriali e tengono alta la qualità del prodotto e realizzano grandi performance sui mercati esteri. Quindi queste tre cose messe assieme, unitamente ad altre, credo possano fare parlare di metamorfosi. Quindi è un cambiamento strutturale, un'apertura all'internazionalizzazione, un'apertura alla ricerca e un consolidamento della realtà industriale, cosa che, tornando al professor Trigilia, al sud è un po' più difficile da vedere. C'è un ruolo della grande impresa ex pubblica, in parte privata, ma sappiamo i gravi problemi dell'ILVA, per esempio, ma c'è soprattutto, e lo sottolineo nel libro, un grande traino da parte della spesa pubblica nel Mezzogiorno. Perché non il modello emiliano, il modello dei distretti al sud ha attecchito poco, professor Trigilia? Perché il contesto è più povero di economie esterne, di servizi, di beni collettivi, di infrastrutture, e le istituzioni locali e regionali non lo hanno arricchito in questo senso. Però vediamo anche oggi una grande opportunità che può fare del sud una leva per lo sviluppo nazionale in modo meno costoso del passato, se solo si riuscisse a valorizzare il patrimonio di risorse locali che hanno molte regioni meridionali, e qui mi riferisco soprattutto ai beni culturali e ambientali, ma anche a una miniera poco conosciuta e trascurata che è l'agricoltura meridionale, quindi vantaggi competitivi legati al suolo, al clima, e anche le risorse, direi, che sono radicate nelle università meridionali. Tutto questo potrebbe essere valorizzato a costi più bassi, facendo però funzionare meglio le istituzioni politico-amministrative. Ecco, lei scrive in conclusione del suo libro: una politica di sviluppo per il Sud che vada a vantaggio di tutto il paese è dunque difficile ma possibile. I cambiamenti del mercato e la globalizzazione dell'economia creano difficoltà e tensioni, ma aprono oggi una nuova occasione per trasformare le città del Mezzogiorno in attivi generatori di sviluppo per i loro territori. Quindi questa potenzialità c'è anche su questi nuovi fattori. Anche qui forse, professor Trigilia, nel Mezzogiorno bisogna trovare un modello di sviluppo diverso dal passato. Senz'altro, non inseguire un'industrializzazione da costruire a colpi di incentivi, ma cercare di valorizzare di più le risorse che ci sono e la cui valorizzazione dipende meno dal capitale finanziario, dai finanziamenti, e più da una capacità di coordinamento che valorizzi la qualità imprenditoriale. E chiedo al professor Mosconi che cosa può fare un'industria, un settore, i distretti forti come quelli del modello emiliano per l'insieme del paese e quindi per l'insieme della crescita e quindi anche del Mezzogiorno. Professor Mosconi. Devono continuare a irrobustirsi, nel senso che l'Emilia-Romagna, come altre regioni del centro-nord, hanno, viva Dio, un terzo del loro valore aggiunto che deriva dall'industria, vista come sommatoria di manifattura e costruzioni. Ora, il grande merito di queste regioni, io analizzo l'Emilia-Romagna, ma ripeto, il discorso vale anche per altre, è di non avere abbandonato la tradizione manifatturiera, la vocazione manifatturiera negli anni delle lodi sperticate ai castelli di carta. Adesso che questa manifattura l'abbiamo preservata, la metamorfosi va compiuta, nel senso che i segni della trasformazione che prima dicevo non raccontano tutta la storia, c'è una storia ancora da scrivere che ha nella crescita dimensionale e nel perseguimento di nuove specializzazioni due punti essenziali. Io credo che se l'Emilia Romagna saprà completare la sua metamorfosi, irrobustire le sue imprese, spostarsi su nuovi settori, ecco, potrà svolgere una cosa che ha già svolto e sta svolgendo: attrarre dei talenti. A me perché piace studiare l'industria manifatturiera e quella emiliana in particolare? Perché alla fine, in un paese in cui molti predicano la meritocrazia ma pochi la praticano, ecco, nell'industria manifatturiera, nei laboratori di ricerca delle imprese manifatturiere, i talenti bisogna assumerli, e molti sono del sud, perché per esempio le università emiliano-romagnole hanno una buona tradizione per attrarre. Grazie, però dobbiamo pensare di avere nuovi modelli, nuove prospettive, sì, e non replicare appunto i modelli vecchi, perché anche il sud ha grandi potenzialità. Dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio il professor Franco Mosconi, curatore del libro La metamorfosi del modello emiliano, l'Emilia Romagna e i distretti industriali che cambiano, edito dal Mulino. Sono 336 pagine per 25 euro, così come edito dal Mulino e anche il libro di Carlo Trigi, Non c'è nord senza sud, perché la crescita dell'Italia si decide nel mezzogiorno. Sono 120 pagine per 10 euro. Ringrazio anche Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per settimana prossima.